Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Industria alimentare italiana, la ricetta per il successo. Di Adriano Palazzolo. Dopo Expo 2015, il governo ha indicato come obiettivo per l'alimentare un aumento delle esportazioni del settore che arrivi a 50 miliardi di euro entro il 2020. La strada da percorrere è ancora lunga, ma già l'anno scorso, grazie ad un incremento dell'8%, si è arrivati alla quota di 36,9 miliardi. In questa puntata speciale di Voci d'Impresa capiremo cosa c'è dietro il successo di un comparto come l'alimentare, uno dei migliori tra i manifatturieri in Italia, che l'anno scorso ha chiuso con un fatturato di 133 miliardi di euro, prodotto da 58.000 imprese distribuite su tutto il territorio nazionale. Ad aiutarci nell'analisi del settore è una ricerca, trasformata in libro, dal titolo Strategie e performance dell'industria alimentare, edito da McGraw-Hill e scritto a sei mani da Fabio Antoldi, Daniele Cerrato e Antonio Campati. Le finalità del volume ci vengono spiegate da uno degli autori, Fabio Antoldi, direttore del Centro di Ricerca per lo Sviluppo Imprenditoriale dell'Università Cattolica di Milano. Sì, è un lavoro che va a monitorare le performance dal 2007 al 2013, cioè gli ultimi bilanci disponibili dell'industria alimentare italiana. Il focus è sui bilanci di 448 imprese, che sembrano poche se confrontate a un universo di 58.500 imprese che sono l'intera industria alimentare. In realtà queste 400 e rotti da sole coprono metà del fatturato alimentare italiano. Abbiamo verificato quanto in anni importanti, perché prendono dentro anche gli anni della crisi dal 2007 al 2013, hanno performato in termini di crescita dei ricavi, di redditività, di solidità patrimoniale, ottenendone dei risultati molto interessanti. Nel periodo dei 7 anni presi in considerazione in questa ricerca, le imprese dell'alimentare mostrano nel complesso un settore in costante crescita e capace di difendere i margini lordi, sebbene con differenze a volte notevoli da comparto a comparto. All'inizio dell'indagine, i ricercatori hanno avuto l'intuizione di una risposta positiva alla crisi economica da parte del settore alimentare, ma l'obiettivo poi è stato proprio quello di scoprire le ragioni di questa tenuta. La loro attenzione si è focalizzata anche nel capire chi sono gli imprenditori, quali sono i loro percorsi personali, in che modo fanno tesoro delle esperienze dei fondatori e, non da ultimo, le modalità con cui affrontano il tema della successione nella guida dell'impresa. Noi siamo partiti da una segmentazione molto rigorosa dei vari comparti dell'alimentare, quindi la parte estensiva della ricerca, quella che ha interessato 448 imprese, sono sostanzialmente per ciascuno dei 13 comparti presi in considerazione del settore alimentare le più grandi. Dopodiché abbiamo applicato un indice di competitività per selezionare le imprese eccellenti, cioè abbiamo fatto un mix nelle performance inerenti alla redditività, la crescita, l'equilibrio finanziario. Quello che emerge anche da un'analisi econometrica che abbiamo fatto su questi bilanci è una annotazione importante. C'è una correlazione tra le dimensioni aziendali e la redditività, cioè dette in altre parole, più le imprese sono grandi, più la loro profittabilità è grande. E più hanno seguito percorsi di crescita dei ricavi in questi anni, più ancora una volta la redditività è stata premiante. Questa è la dimostrazione che forse piccolo e bello non è più così tanto vero, e saper gestire imprese votate alla crescita porta anche soddisfazione da un punto di vista finanziario. Per la prima volta le principali imprese dell'industria alimentare italiana sono state oggetto di indagine e messa a confronto, valutandone i risultati economici e le componenti delle strategie competitive. Il risultato di questa analisi, commissionata da Fiere di Parma e i ricercatori dell'Ateneo Milanese, ha portato alla luce i punti di forza del settore, definendo le strategie delle imprese e la rilevanza dell'elite imprenditoriale per la competitività dell'agribusiness italiano, come spiega ancora Fabio Antoldi. La prima parte dell'indagine, appunto su questo campione, ha dimostrato che il comparto del Made in Italy e il comparto alimentare si conferma un pilastro del Made in Italy. Cioè, nonostante la crisi che ha interessato anche i mercati di largo consumo, i fatturati sono cresciuti, sono cresciuti sia sul mercato domestico che soprattutto sul mercato estero. La redditività ha tenuto, abbiamo un EBITDA sulle vendite medio dell'intero settore di circa l'8,5%, quindi un risultato molto positivo. Poi però siamo andati più in profondità, abbiamo identificato i campioni, cioè le imprese eccellenti, circa 120 sull'intero campione, e lì siamo andati a interrogare gli imprenditori anche sulle strategie che hanno adottato, trovando anche qui delle utili consigli per il settore. Per la prima volta le principali imprese dell'industria alimentare italiana sono state oggetto di indagine e messa a confronto, valutandone i risultati economici e le componenti delle strategie competitive. Il risultato di questa analisi, commissionata da Fiere di Parma e i ricercatori dell'Ateneo Milanese, ha portato alla luce i punti di forza del settore, definendo le strategie delle imprese e la rilevanza dell'elite imprenditoriale per la competitività dell'agribusiness italiano, come spiega ancora Fabio Antoldi. Sembra quasi banale, però è sintetizzabile in tre parole chiave, che sono innovazione, qualità e tradizione. Non è però semplicemente lo slogan tipico del Made in Italy, è proprio una serie di politiche che sono state adottate, che noi con un questionario abbiamo evidenziato: l'innovazione è innovazione di processo, con la ristrutturazione organizzativa, l'innovazione di prodotto, una quantità di innovazione nel packaging, innovazioni incrementali, ma anche innovazione nei macchinari, e abbiamo trovato poi una ricerca molto forte sulla qualità sia delle materie prime che dei prodotti finiti, e tradizione perché effettivamente il Made in Italy è il cavallo di battaglia sui mercati esteri. Nel DNA delle aziende di successo non può mancare poi una forte attenzione all'estero, che, come spiega il professor Antoldi, che insegna strategia aziendale e imprenditorialità e management delle piccole e medie imprese, diventa una componente fondamentale per una buona riuscita nel mercato. Per esempio, se noi prendiamo un altro capitolo importante, che è quello dell'internazionalizzazione, abbiamo su questo tema intervistato le imprese eccellenti, scoprendo che la maggior parte di loro, praticamente tutte, sono presenti ovviamente sul mercato europeo, ma c'è una proiezione molto forte anche sul mercato nordamericano. Ci sono aspettative di crescita del mercato estero nel Sud America molto interessante. C'è l'Asia, che non è solo la Cina, ma è un'Asia più estesa, che è oggetto di aspettative molto elevate. Continenti come l'Europa, le Americhe e l'Asia, però, non sono soltanto mercati. Alla base del successo delle imprese del settore alimentare ci sono concrete scelte orientate all'innovazione, alla qualità e alla valorizzazione della tradizione, unite a una vocazione internazionale consolidata. Per quanto riguarda le modalità di internazionalizzazione, un'internazionalizzazione che è ancora molto leggera, basata prevalentemente sull'export, però iniziano a esserci investimenti anche diretti all'estero. Per quanto riguarda poi invece le politiche che hanno messo a punto per far fronte in qualche modo alla crisi, è interessante proprio questo investimento forte che hanno fatto nel 2012-2014 sulle innovazioni di progetto, di innovazioni di processo, innovazioni di prodotto, ma anche i recuperi di efficienza che hanno avuto riorganizzando gli impianti, dando flessibilità e velocità. Una prima verifica della tendenza dell'export per l'anno in corso e per i prossimi anni potrà essere fatta durante l'appuntamento con Cibus 2016. Il Salone Internazionale dell'Alimentazione, previsto a Parma dal 9 al 12 maggio, sarà anche un momento di confronto su alcuni dei temi affrontati dai ricercatori dell'Università Cattolica, come l'innovazione dei processi produttivi, lo sviluppo di nuovi prodotti, la valorizzazione della tradizione e l'attenzione ai mercati esteri. Antonio Cellie, amministratore delegato di Fiere di Parma, che organizza la manifestazione, fa il punto sull'indagine e parla di unicum dell'industria alimentare. È un unicum che questa ricerca ci restituisce in tutta la sua chiarezza. In questi ultimi 7 anni di crisi è cresciuta del 25%, quindi ha overperformato rispetto agli altri settori manifatturieri di oltre 31 punti. Ha mantenuto quindi un tasso di crescita costante del 4%, un EBITDA medio del settore quasi del 9%, e soprattutto si è rafforzata patrimonialmente, perché il settore ha passato un rapporto mezzi propri dallo 0,7 all'1,4%, con eccellenze come il dairy, che è molto capital intensive, all'1,6. Quindi ecco, oggi abbiamo un quadro che dal punto di vista numerico è molto chiaro, ma dal punto di vista espositivo penso che Cibus potrà darci in maniera corale finalmente a maggio di quest'anno. Un settore dunque che è proiettato verso il futuro per il raggiungimento di quell'obiettivo di cui abbiamo parlato all'inizio di questa puntata, 50 miliardi di fatturato per l'export entro il 2020, ma che non può fare a meno di ricordare anche il passato recente, una pagina importante che si è chiusa pochi mesi fa e che, come ricorda Antonio Cellie, ha significato un punto di svolta per tutti i comparti dell'agroalimentare. L'Esposizione Universale di Milano, il cui tema portante è stato proprio il cibo, spiega ancora Antonio Cellie. Expo è stata una palestra straordinaria che ci ha insegnato diverse cose. Innanzitutto che per supportare l'export del Made in Italy alimentare non basta semplicemente andare a fare mercati, ma bisogna fare anche relazioni istituzionali. Ci sono alcuni paesi, vedi il caso degli Emirati Arabi piuttosto che gli Stati Uniti stessi, dove la relazione anche diplomatica e istituzionale è fondamentale. In questo, secondo me, l'accoppiata Fiere Parma Federalimentare col padiglione Cibus Italia è stato una meravigliosa ed efficiente piattaforma di natura relazionale di business. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.